24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Sergio Nava e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. Immigrazione ed economia al centro dell'edizione di oggi, con ben due interviste esclusive al ministro delle finanze greco Giorgi Papakostantinou e al commissario europeo alla fiscalità Algirdas Semeta. Ma per cominciare ancora la crisi in Libia, con il riconoscimento da parte dell'Italia del Consiglio nazionale di transizione di Bengasi come unico interlocutore. E poi immigrazione, ma anche cinema e Champions League nel nostro notiziario. In primo piano, come dicevamo, la crisi libica. L'Italia riconosce gli insorti di Bengasi come unico interlocutore in Libia. Lo ha precisato il ministro degli esteri Franco Frattini ricevendo il rappresentante della politica estera del Consiglio di Bengasi, Ali Alisaf. Sentiamo Frattini. È un organismo che ha dimostrato credibilità. Ha adottato un documento politico in cui esprime il suo punto di vista sul futuro della Libia ed è un punto di vista che noi condividiamo. Democrazia, diritti umani, elezioni democratiche, rifiuto del fondamentalismo. Su queste basi noi ormai lo consideriamo l'unico interlocutore per quanto riguarda la Libia. La posizione dell'Unione Europea sulla Libia resta quella contenuta nelle conclusioni del Consiglio Europeo dell'11 marzo. Il Comitato Nazionale di Transizione è un interlocutore con il quale discutere e portare avanti il processo di transizione democratica. Così Michael Mann, portavoce dell'alto rappresentante europeo Catherine Ashton. Sul fronte immigrazione si tratta sui rimpatri dopo l'incontro di ieri a Tunisi tra il premier Silvio Berlusconi e il suo omologo tunisino Beji Caid Essebsi. La firma di un'intesa ancora non c'è, ma il premier si è detto fiducioso. Sentiamo. Possiamo dire che c'è una grande e assoluta volontà da entrambe le parti di trovare le soluzioni che, come potete immaginare, vanno nella direzione di un controllo delle coste da parte delle forze dell'ordine della Tunisia. Noi daremo il nostro aiuto in termini di mezzi di terra e di mare affinché questo controllo possa essere un controllo efficiente e capillare e poi ci sarà anche da esaminare una possibilità di soluzione al problema dei rimpatri. Anche su questo noi stiamo lavorando, c'è la disponibilità da parte del governo di Tunisi e c'è la nostra volontà di farlo in una maniera assolutamente civile. E sempre sul fronte immigrazione, Bruxelles ha reso noto che l'eventuale rilascio di documenti per consentire il soggiorno temporaneo di migranti sul territorio comunitario rientra nelle facoltà delle autorità nazionali. Intanto al confine con la Francia, la Lega Nord ha tenuto domenica a Ventimiglia una manifestazione contro l'atteggiamento di Parigi. Edoardo Rixi, capogruppo del Carroccio nel Consiglio regionale Ligure. È un atteggiamento che noi riteniamo sbagliato da parte dei francesi, soprattutto perché ci sono degli accordi internazionali. Chiediamo alla Francia di farsi carico anche lei dei suoi problemi e quindi di gestire la cosa, l'emergenza clandestini della Tunisia a livello europeo e fare le sue pressioni su Tunisi. Siamo qua a manifestare come Liguri e come Piemontesi perché siamo anche alla vigilia dell'estate, quindi la Liguria è una terra del turismo, soprattutto balneare, e rischiamo di vedere distrutto completamente il nostro sistema turistico a causa del fatto che i francesi dicono tranquillamente venite in Costa Azzurra che non abbiamo clandestini, mentre l'Italia ne è piena. Comincia una nuova stagione per lo spazio europeo con il documento sulla politica spaziale approvato dalla Commissione. Così il vicepresidente Antonio Tajani, che a Frascati ha presentato la strategia spaziale dell'Europa. Tra i programmi sui quali si concentra l'attenzione, il programma di osservazione della Terra CMES, Galileo ed EGNOS. E apriamo ora l'ampia pagina economica di 24 ore in Europa. Iniziamo dalle borse, come sempre. Positiva Milano. Borse europee senza direzione all'inizio della settimana che porterà con ogni probabilità la Banca Centrale Europea ad alzare i tassi di interesse di un quarto di punto nella riunione di giovedì prossimo. A Milano il FTSE MIB ha chiuso in progresso dello 0,18% e il FTSE All Share dello 0,22%. La giornata è stata ancora dominata dalle banche in vista di possibili aumenti di capitale. Quello da 5 miliardi previsto per Intesa San Paolo ha consentito all'istituto di guadagnare lo 0,95%. Grazie a questa operazione, infatti, l'istituto rafforzerebbe in maniera significativa il proprio patrimonio, obbligando gli altri istituti a fare altrettanto.

Inoltre ci saranno minori costi che le imprese dovranno sostenere per espandere la loro attività oltre confine. Le società avranno la possibilità di avere a che fare con un solo sistema di tassazione, anche se sono attive in diversi Stati membri. Credo che il sistema di armonizzazione fiscale sarà attraente anche per gli investitori stranieri. Attualmente, infatti, devono affrontare molte difficoltà quando investono in più stati, perché hanno a che fare con molteplici e diversi sistemi fiscali. Si prospetta un rialzo dei tassi di interesse da parte della BCE. In Italia le piccole imprese fanno i conti su quanto costerà. Sentiamo. Interessi passivi in aumento di 600 milioni di euro già dal gennaio 2012. È questo, secondo le stime del Centro Studi di Confindustria, il costo che le piccole imprese sotto i 20 dipendenti dovranno sostenere in seguito alla nuova stagione di rialzi dei tassi di interesse da parte della BCE, che si aprirà con tutta probabilità giovedì 7 aprile. Complessivamente, a regime, nel medio e lungo termine, il conto complessivo da pagare sarà di 3,2 miliardi. L'elaborazione si basa sull'ipotesi di un rincaro del costo del denaro di un punto percentuale entro la fine del 2012 in quattro mosse e di uno spread costante al 2,2%. Per i finanziamenti sotto un milione di euro, il rincaro potenziale sarà dell'1%. In un nuovo scenario con tassi in salita, si accendono i riflettori sul paracadute offerto dalla nuova moratoria sul credito siglata a metà febbraio, che prevede la possibilità per le banche di mettere in campo strumenti di copertura dal rischio tassi. Due le opzioni possibili, la conversione del tasso da variabile a fisso e un variabile con cap. Chiara Bussi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Cinema. A Parigi trionfa un documentario franco-italiano. È Palazzo delle Aquile di Stefano Savona, Alessia Porto ed Esther Sparatore, che ha vinto il concorso internazionale al Festival du Cinéma du Réel. Marta Cagnola ha intervistato Stefano Savona. La storia dell'occupazione del palazzo di città di Palermo da parte di 18 famiglie di senza casa è stato un po' casuale. Cercavamo di girare un film sulla politica. Per fare questo avevamo iniziato a girare la campagna elettorale delle amministrative palermitane. Qualche mese dopo siamo trovati al centro di questa sorta di teatro della politica, che era il palazzo di città occupato da degli inquilini assolutamente inattesi e nuovi, che in quel contesto, che era proprio l'aula del consiglio comunale, si trovavano a mettere in scena un loro gioco politico. Quindi era un po' come una specie di gioco di specchi tra la politica ufficiale e questa che invece si organizzava dal basso. Sport a calcio, stasera torna la Champions League con andata dei quarti di finale, l'Inter ospita i tedeschi dello Schalke 04. Il servizio. Cerca in Europa la medicina per guarire dal mal di derby, l'Inter di Leonardo. La sberla rimediata dal Milan fa ancora male, ma subito a San Siro arriva lo Schalke 04 per giocarsi il sogno della semifinale di Champions. Siamo ancora in corsa per tutto, predica Leo al gruppo ancora scosso dal KO nella stracittadina. Tedeschi che, trascinati da Raul, ex bandiera del madridismo, in Bundesliga sono in affanno, ma in Champions volano, come spiega proprio il tecnico nerazzurro. Ho giocato contro squadre importantissime come Lione, come Benfica, come Tel Aviv Apoel, contro il Valencia, gli è arrivato nei quarti di finale. Sono arrivati lì non per caso. In corsa per la Coppa dalle grandi orecchie anche José Mourinho, che col Real incrocia il Tottenham, ammazza Milan. Poi domani toccherà Barcellona Shakhtar Donetsk e al derby inglese Chelsea Manchester United, con Ancelotti che con i suoi Blues proverà a fare lo sgambetto ai Red Devils di Sir Alex Ferguson. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sul fronte degli appuntamenti di oggi vi segnaliamo che Eurostat renderà noti i dati del commercio al dettaglio. A Strasburgo si riunisce la Commissione Europea. Sempre nel capoluogo alsaziano, il presidente dell'esecutivo comunitario José Barroso incontra Bill Gates. In aula il presidente dell'Unione Europea Herman Van Rompuy parlerà delle conclusioni del Consiglio Europeo. Sempre in aula è prevista una dichiarazione della Commissione sulla strategia per l'integrazione dei Rom. Sarà presentato infine il rapporto annuale sulla lotta alle frodi nel 2009. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.